Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Chris Angiolini, il co-direttore del Beaches Brew, che è in collegamento telefonico con noi per parlare dell'edizione di quest'anno. Chris, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi, grazie per l'invito. Beaches Brew arriva alla nona edizione e quest'anno da lunedì 6 a giovedì 9 giugno ci aspettano dei giorni all'insegna di tantissima musica, e vorrei iniziare un po' a partire dai protagonisti e le protagoniste di quest'anno. Chi ci sarà in line up e quali saranno le artiste e gli artisti che potremo ascoltare in questa nona edizione? Il programma è piuttosto denso, diciamo così che per 4 giorni, dal lunedì al giovedì, a Marina di Ravenna, come al solito, insomma, arriveranno 21 artiste e artisti da tutto il mondo, e così, facendo un rapido calcolo, ci siamo resi conto che arrivano da 11 paesi diversi. Si parte come al solito con la giornata inaugurale presso il Molo Dalmazia a Marina di Ravenna, dove saremo accompagnati come da tradizione dal Garage Sale. Quel giorno suoneranno gli Endless Boogie da New York, i Soft Palms e Aldum & The Fari. Poi invece da martedì ci spostiamo all'Anabi, dove rimarremo per tutte e tre le giornate fino a giovedì, dove però ci sarà anche nella giornata di martedì un evento speciale presso il MAR, che è il Museo d'Arte della città di Ravenna, nel pomeriggio, con il solo di Ben Shimi, che è il cantante dei Suns, che qui da queste parti sono passati veramente diverse volte ed è uno dei tra i tanti degli amici del festival e dell'Anabi, insomma. Poi le giornate saranno abbastanza caratterizzate, magari a differenza del solito, cioè nel senso che il martedì sarà una serata magari un pochettino più elettronica, di clubbing, più dance, dove saremo anche attenti un po' e contenti di ospitare nuove tendenze come gli artisti di Niege Niege. Poi sarà il ritorno di Kelman Duran, Model Home da Washington, Vera di Lecce. Tutto sarà, diciamo, concluso dal DJ set di Cemento Atlantico. Mercoledì invece sarà una serata un pochettino più post-punk, con il graditissimo ritorno dei Tropical Fox Storm, e poi ci saranno gli Oslords, le Automatic da California, un progetto che trovo interessantissimo di Ghost Woman, questa idea di indie psych cinematico molto interessante, e apriranno i Leverett, bolognesi, che hanno appena firmato per la nostra Bronson Recordings. E poi finalmente si ballerà sotto la tettoia con DJ Fitz, è quello che un po' tutto il pubblico di Beaches Brew aspetta. Chiusiamo giovedì 9 giugno, come headliner abbiamo gli olandesi Yin Yin con il loro cosmic Thai funk, diciamo, e accompagnati dai francesi Cushion Moon, poi ci saranno dalle Filippine e dal sud-est asiatico il Seniawa, poi Amami su Bongo Joe Records, e aprirà la serata Godu Gong, che è l'autore di uno dei dischi più interessanti usciti in Italia quest'anno, e si chiuderà sempre con DJ Fit sotto la tettoia. Come dicevi prima, la lineup di quest'anno, diciamo che ogni giornata è caratterizzata un po' da un genere, un po' da degli stili predominanti. Ti chiedo il perché di questa scelta rispetto magari a edizioni in cui a essere caratterizzata era la lineup di tutte le giornate. Sì, diciamo così, l'idea iniziale rimane quella un pochettino del mix tra i generi, del gusto per la ricerca di nuovi artisti, anche, diciamo così, la scoperta di nuove ibridazioni. Devo dire che ogni anno cerchiamo di caratterizzare ogni giornata, ma poi in base alle disponibilità degli artisti, le aggiunte dell'ultimo minuto e tutta una serie di dinamiche, questa cosa magari non avviene in modo così definito come magari ci è riuscito quest'anno, dove magari abbiamo avuto la possibilità di scegliere più agevolmente le giornate artista per artista. E quindi quest'anno, diciamo così, è uscito in questo modo, anche se il mix poi, un'idea, una linearità noi ce la troviamo sempre nel programma che facciamo, però quest'anno è sicuramente più evidente. Cristi, faccio l'ultima domanda rispetto anche un po' al contesto di questa nona edizione, che sicuramente dopo 2 anni di pandemia è la prima estate in cui a livello almeno di ordinanze si ritorna un po' a un'estate del 2019, per capirci. Ti chiedo come avete organizzato l'edizione di quest'anno e quali sono un po' le emozioni di ritornare a un Beaches Brew di grandissimo livello. Diciamo che già l'anno scorso, quando abbiamo fatto queste 10 giornate di transizione a luglio, abbiamo un po' percepito la voglia che c'era attorno a noi di qualcosa che fosse effettivamente marchiato Beaches Brew dal punto di vista delle atmosfere, quindi abbiamo avuto un bellissimo riscontro anche l'anno scorso. E da lì chiaramente abbiamo immediatamente pensato di tornare quest'anno a un'edizione, diciamo così, più tradizionale, anche se abbiamo deciso di rimanere un pochettino, diciamo così, in una fase intermedia. Infatti lo abbiamo definito Lost in Transitions, proprio perché non avremo i due palchi, andremo al molo, ma il palco principale sarà quello sotto la tettoia, mentre quello in spiaggia sarà un secondo palco. L'altra idea è stata quella di, diciamo così, di rivolgersi soprattutto ad artisti che principalmente conosciamo anche personalmente o che comunque facciano parte di una specie di giro di amici di Beaches Brew, ecco, proprio per ripartire con i migliori propositi e affiancati esclusivamente energie positive per quanto possibile, insomma. Quindi sì, c'è tanta voglia di tornare, soprattutto di tornare a ballare, e infatti un po' la selezione anche della lineup va in quella direzione. Cristi, io ti ringrazio e ti auguro un grande in bocca al lupo per l'edizione di quest'anno, e chiaramente invito anche tutte e tutti ad esserci. Ci vediamo in spiaggia dal 6 al 9 giugno a Marina di Ravenna.